chiedo asilo. Speciale settimana bisestile. I tre porcellini. Seconda puntata. Noi siamo tre, tre, tre fratelli. Noi siamo porcelli. Andiamo a vivere da soli. La mamma ci ha sbattuto fuori. Noi siamo un, due, tre fratelli. Noi siamo porcelli. Ognuno nella sua casetta. Occhio brodo fuori, lupo lì che aspetta. Ne vuoi io. Riassunto della puntata precedente. I tre porcellini, Gildo, Ioris e Filippo, ormai grandi, vengono cacciati di casa da mamma porcellina. Mamma! Mamma! E si ritrovano nella disagevole situazione di doversi cercare un riparo prima che scenda notte e che arrivi il lupo cattivo. Tre porcellini, Gildo era il più piccolo ed era anche il più pigro e forse anche il più stupido. Senza forse. Quindi decise di costruirsi una casetta in 5 minuti, fatta tutta con della semplice sterpaglia. Mi fumo una paglia, disse fraintendendo quello che avevo detto. Fu così che la capanna di paglia prese fuoco e Gildo dovette costruirne un'altra, suo malgrado. No, Gildo, tuo malgrado. Vabbè, malgrado Gildo, la storia continua. Yes, I know! My way! Ma non è dove portate tu! Yes, I know. Anche Ioris, che era il fratello di mezzo, non aveva troppa voglia di lavorare. Però non era pigro quanto Gildo. E avrei pure la voglia di lavorare, intendiamoci, guaglio. Il problema è che tengo dei problemi alla schiena e non posso fare sport, capito? Ioris prese a camminare alla ricerca di un riparo. Cammina, cammina, incontrò uno zingaro che affittava roulotte. Venite tutti a comprare di roulotte, affitto ruote di volante con peluche, tutto quanto roulotte, bellissime, tutte nuove, quasi nuove. Ehi, zingaro! Ehi, che? È una roulotte! Bellissima, eh? È una roulotte, perfetta, fa proprio per il mio caso. Tu prendi roulotte, bella, eh? Sì, non c'è bisogno di costruire e nemmeno di ristrutturare. Niente, tutto nuovo, bella, eh? Tu pare me biglietto di soldi e tu prendi roulotte, questa quasi nuova, bella. Ma quale è quasi nuova? Nuova e bella. È tutta scrostata là. Cosa dire tu? Io non capisco niente. Che parola scro? Zingaro, stai a sentire a me. Questa roulotte fa proprio schifo. Tu è brutto, eh? Tu brutto, tu vuoi cerchi guai, tu brutto. No, come minimo a me mi devi fare il 100% di sconto. Ah, i bello porcello, tu vuoi finire su piastra con paprika e Slivovitz? Tu non devi fare di furbo, tu non sai chi io sono. No, e chi sei? Io cugino di fratello di zia di uomo che abita vicino di cognata di Ibrahimovic. Wow, ma davvero? Tu sei il cugino di Ibrahimovic? Ibrahimovic? Allora mi devi fare un autografo, fra. E fu così che Ioris si fece firmare con l'inganno un contratto di cessione a titolo gratuito della roulotte. Vabbè, va, fammela vedere un po', sta roulotte, va. Ok. Ma ci sta un po' di buzzi di piscio, fa. Ah, boh, dai, è gratis. E Filippo, detto Pippo, dov'è finito? Allora, signor custode. Concierge, s'il vous plaît. Vabbè, lo stesso. Comunque, ricapitoliamo. Appartamento singolo. Con cabina doccia, cabina letto, cabina water e angolo cucinotta, giusto? Il cucinotta, ouais. Parfait, c'est parfait. Monsieur Philippe, hein? Philippe. No, ouais, ma quale Philippe? Alors, io mi chiamo... Vi auguriamo un piacevole soggiorno nella nostra residence, la residence Le Mirage. Vous voulez aussi une coperta? Vous savez, une coperta? Come la coperta? La coperta, vous savez. Sì, ma scusi, visto che ho la cabina a letto, nella cabina a letto presumo ci sarà pure una coperta, no? Cioè... Monsieur, si tratta di un'altra coperta, sai? Capisci? Coperta? Vabbè, la coperta in più! Cioè, nel caso cioè, venisse la gelata, cioè c'è la coperta di riserva. Non sei la coperta slovanca! È slovanca... Slovanca nel senso che è una coperta pesante, no? Di pelo di bue moschiato degli Urali, no? No, sto parlando di... Slovanca! Filippo era tanto pigro quanto i suoi fratelli, ma rispetto a loro era molto più viziato. E si sistemò dunque al Residence Mirage, famoso in tutta Europa per essere il rifugio notturno di frotte di modelle appena maggiorenni, tutte equipaggiate di zigomo slavo e polpaccio nervoso. Pronto, Gildo? E stai calmo? Cos'è successo? Ma come? Hai incendiato la capanna? Vabbè, no, invece io no, io qui sto benissimo. Io sono qui all'hotel Mirage. E Mirage? È mica male sto posto, Qui è un hotel di lusso. C'è anche un'usanza strana, no? Della coperta. Cioè, basta dire il nome di una ragazza, tipo Slovanka, eh? E tu Slovanka, vabbè. Ed ecco che immediatamente... scatta un appuntamento in camera con questa Slovanka, no? Che si presenta! Quindi io, per non sbagliarmi, ho scelto Slovanka, no? Perché, vado sul sicuro. Quindi tra poco, se tutto va a buon fine, alla porta dovrebbe bussarmi Slovanka, no? E tu li brucia, Ho capito che brucia, ma tu sei ancora al telefono? Ma scappa, no? Hai chiamato i pompieri? I pompieri! E il 100... no, il 118 è un'altra roba. Chiama i pompieri! No, lì non sono vicini! Cioè, sono a 15 chilometri! Devi prendere il telefono e fare il 100... Tu fai il 118 e chiedi i pompieri! E poi loro ti mandano lì qualcuno! Tu adesso metti giù! No, metti giù prima tu! No, dai, metti giù! Gildo, sta andando tutto a fuoco! Gildo! Gildo! E poi c'è tutto il fumo, questo sarà svenuto per il fumo, no? Che poi uno pensa, per quando succedono gli incendi, no? E la maggior parte delle morti, uno pensa, è bruciato vivo. Ma che è bruciato vivo? Quello prima ancora di scotarsi il dito è già morto perché ha respirato il fumo, no? E i polmoni collassano, c'è la tossicità. E qui sono il Mirage. E ma Slovanka? E dov'è? E sei fratello? Noi siamo 3 fratelli, noi siamo porcelli, andiamo a vivere da soli, la mamma ci ha sbattuto fuori. Noi siamo 1, 2, 3 fratelli, noi siamo porcelli, ognuno nella sua casetta, occhio pronto fuori, lupo lì che aspetta, ne vuoi io. Che cosa succederà adesso? Che me ne frega a me? Slovanka busserà alla porta di Alberto. Ops, rettifico, Filippo? Ma basta, Filippo! Sono Alberto! Stai zitto! E in tutta questa storia, come mai non c'è il lupo? Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani alla stessa ora su Radio 24 per il prossimo Licantropico allestimento di...